Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Sì, sta voce t'è scesa in ta nottata, mentre ta strigne o sposo tuo vicino. Per questo appuntamento estivo con il cacciatore di libri ci tuffiamo nella Napoli anni 30 con il commissario Ricciardi, personaggio seriale creato dalla penna di Maurizio De Giovanni a partire dal 2005. Lo stesso De Giovanni poi a partire dal 2012 ha scritto anche altri personaggi seriali che sono i bastardi di Pizzo Falcone, ossia una serie di poliziotti che indagano nella Napoli di oggi. L'ultimo romanzo con il commissario Ricciardi protagonista si intitola Serenata senza nome, pubblicato da Einaudi, e la canzone che sentite in sottofondo ha molto a che fare con questo romanzo. Ricciardi, lo ricordiamo, è un personaggio particolare, insomma un uomo triste, solitario, ma sentiamo un po' come lo descrive il suo autore. Ricciardi è un introverso, Ricciardi è un personaggio, innanzitutto non è napoletano ma cilentano, e tutti gli uomini cilentani, soprattutto dell'interno, lontani dal mare, sono piuttosto introversi, taciturni e portati all'introspezione. Ricciardi nella fattispecie è aiutato in questa caratteristica dal fatto di avere una particolare capacità di percezione dei morti, di morte violenta, di cui sente le ultime parole, continua a sentire le ultime parole finché queste non sbiadiscono col tempo. Chiaramente questa cognizione, questa concreta percezione del dolore comporta per Ricciardi uno status di solitudine. Lui pensa di essere folle, non vuole condividere questa pazzia. I morti sono di fatto i suoi committenti, cioè quelli che gli chiedono di mettere riparo al loro dolore, e quindi Ricciardi viene fuori così, viene fuori solitario, viene fuori separato, direi, dal resto della città. È su un altro piano rispetto alla città. E su un altro piano Ricciardi, ma c'è da dire anche che le frasi, gli ultimi pensieri dei morti di morte violenta che lui percepisce, in realtà poi non lo aiutano tanto nelle indagini, non è un escamotage per scoprire il colpevole. Quindi hai voluto creare proprio un personaggio di grande empatia nei confronti del genere umano. Sì, sì, sì, lui non è mai aiutato dal fatto, che è il modo in cui io chiamo questa sua percezione. Anzi, è singolare come la compassione, che è il sentimento che dovrebbe più unire le persone fra loro, alla fine le separa, proprio perché gli rende difficile condividere questa percezione concreta, fisica, del dolore altrui. Noi, quando pensiamo al dolore degli altri, ci pensiamo in termini collettivi, quindi in termini forzatamente astratti, un po' più freddi. Se invece ipotizzassimo un contatto fisico, personale, particolare col dolore degli altri, ne avremmo tutt'altro coinvolgimento. Ogni scrittore scrive e si inventa un personaggio seriale per mille ragioni, per creare un alter ego, per fare quello che vorrebbe fare nella vita, per essere quello che vorrebbe essere. Tu che cosa hai in comune con il commissario Ricciardi? No, io sono convinto che uno scrittore debba raccontare le storie altrui. Cioè, io sono convinto che uno scrittore sia come l'arbitro di calcio, cioè meno lo senti, meno lo vedi, meglio è. Devi allontanarti, devi raccontare le storie dei personaggi. Non sei tu che diventi supereroe, sono i personaggi che hanno una vita loro, e tu devi sei un testimone affacciato a una finestra che racconta a quelli che sono dentro quello che vede, né più né meno. Credo che Ricciardi, che forzatamente rimane contaminato, io ricordo che Calvino diceva: come scriverei bene se non esistessi? Cioè, se non ci fosse la mia persona tra le storie che devo raccontare e chi le deve leggere. Credo che questo non sia possibile, quindi tu contamini sempre un po' di te con i personaggi. Ricciardi di me ha l'incapacità di fregarsene, l'incapacità di girare le spalle, di cambiare canale, di voltare la pagina di un giornale e di non sentirsi partecipe di quello che ci succede attorno, delle disgrazie che ci succedono attorno. Quindi insomma è la compassione che vi lega? Sì, sì, spero di sì. Credo che la compassione sia un elemento necessario. Cominciamo un po' a interpretarla socialmente come una debolezza. Non è così. La compassione è l'unico elemento necessario per il vivere sociale. Siamo una società di individui. Tendiamo a diventare sempre più una società di individui. Consideriamo solo i vincenti, chi arriva secondo è il primo dei perdenti. Non è così. Tutti quanti noi dobbiamo anche tenere una importante parte di noi stessi riservata alla collettività. Veniamo all'ultimo romanzo con protagonista il commissario Ricciardi, Serenata senza nome. Brevemente, giusto, diamo un accenno alla trama. C'è questo Vinny che emigra negli Stati Uniti, siamo appunto negli anni 30, poi torna a Napoli per amore di una donna, ma questa donna in realtà ha avuto la sua vita, si è sposata, in realtà è rimasta vedova e quindi Ricciardi dovrà indagare su questo omicidio. Ricciardi ha un modo di indagare appunto particolare, cerca sempre di capire le persone guardandole negli occhi, cercando di capire insomma come si comportano. In questo caso cos'è che lo colpisce di questo Vinny e insomma del caso su cui deve indagare? Ma lo sorprende, lo colpisce e soprattutto si riconosce nell'assenza del tempo. Quest'uomo ha perso il passato, che non ritrova più. Non trova più il presente, perché l'ho abbandonato, e quindi non ha il futuro. Non avendo passato, non avendo presente, non avendo futuro, è spaesato completamente. Cioè un uomo che ha perduto se stesso, ancora di più di aver perso la donna che amava, ancora di più di trovarsi nei guai, ancora di più di non aver perso anche il lavoro che aveva trovato. Lui ha perso se stesso, ha perso la propria individualità, non considera più la sua presenza, è fuori. E Ricciardi riconosce in quest'uomo il proprio stesso essere fuori, la propria stessa estromissione rispetto al tempo, rispetto alla storia, rispetto al suo presente. Quindi per la prima volta Ricciardi specchia se stesso in una solitudine. C'è una ragione particolare per questo titolo, Serenata senza nome, ce lo vuoi spiegare? Sì, questo è il secondo romanzo di un ciclo che io ho dedicato alle canzoni classiche, napoletane. Il primo Anime di vetro è riferito alla rinuncia e alla canzone Palumbe notte di Salvatore Di Giacomo. Questo qui è dedicato a una delle più grandi e terribili canzoni dettate dalla gelosia e dalla sofferenza, che Voce notte di Edoardo Nicolardi, che è appunto una serenata priva del nome della persona per cui viene cantata, perché l'uomo che la canta ha perso il diritto di poter usare quel nome perché lei ha sposato un altro. C'è da dire che un po' in tutti i romanzi di Maurizio De Giovanni, sia nella serie del commissario Ricciardi anni 30, sia nei Bastardi di Pizzo Falcone, più che scoprire chi è il colpevole, tu voglia indagare perché abbia commesso quel determinato delitto, perché si è arrivati ad una determinata situazione. È questo che ti piace indagare nei personaggi che poi tu stesso crei, magari anche ispirati dalla realtà, ma che poi finisci per creare nella tua mente. Sì, non c'è discussione, è esattamente come dici tu. Chi ha compiuto il delitto è un elemento enigmistico che sinceramente io non trovo interessante, lo trovo sempre meno interessante. Io credo di aver scritto il libro più forte dal punto di vista della serratezza dell'indagine, col metodo del coccodrillo, in cui l'assassino esce a pagina 1, cioè quindi non abbiamo dubbi su chi sia l'assassino, dobbiamo capire perché. E questo capire perché è quello che costruisce tutto il resto del romanzo. Quindi sono convinto sempre di più che il delitto non sia interessante per chi lo ha compiuto, ma perché è stato compiuto. E quella è la dinamica che ognuno di noi riconosce, purtroppo, che corrisponde molto a quello che noi immaginiamo. Simenon diceva che lui nella mente ammazzava 10 volte al giorno. E secondo me è una cosa che risponde alla realtà. La compassione che per esempio Ricciardi prova per le vittime, e che mi sembra di capire anche De Giovanni provi insomma nella sua vita normale rispetto a tutto quello che succede nel mondo, viene provata anche nei confronti dei responsabili dei crimini? Sì, perché l'omicidio è un'abiezione, è un luogo dal quale non si esce mai più. Ovviamente per chi rimane vittima dell'omicidio, ovviamente per chi ama la persona che rimane vittima di un omicidio, ma anche per chi lo compie. Siamo testimoni in questi giorni di delitti terribili compiuti probabilmente sotto l'effetto di droghe o in un momento di nebbia della mente, che saranno croci che verranno portate per tutta la vita. I romanzi non finiscono con l'ultima pagina, i romanzi continuano. L'ultima pagina è quella che lo scrittore decide di porre come confine a quello che sta raccontando, ma tutti i lettori sanno che dopo quell'ultima pagina la storia continua e i personaggi continuano a vivere e rimangono confinati per tutta la vita all'interno della loro disperazione. Che rapporto hai con la trasposizione in TV o eventualmente anche al cinema dei tuoi personaggi, te li senti un po' scippati, come dire, dalle tue mani, dalla tua mente? Sono le tue creature che prendono un'altra vita o riesci a riconoscerli? No, io amo la condivisione. Amo la condivisione in tutta la scrittura, è un'attività solitaria, come la lettura. Quindi è bello condividerla, è bello metterla in comune. Credo che la trasposizione cinematografica sia per ogni autore un momento bellissimo. Chiaramente bisogna capire fin dall'inizio che si tratta di linguaggi diversi, che la lettura rimane l'unico grande modo di entrare nella mente di un personaggio. Quando poi lo vedi è un attore, tu hai sempre ben chiara la consapevolezza che tu sei uno spettatore e quello è l'attore. Quindi per quanto possa essere bravo l'attore, per quanto possa essere ben fatta la trasposizione, per quanto ti possa coinvolgere ed emozionare, rimane questo iato, questo diaframma fra te e la recitazione. Nella lettura, grazie a Dio, questo non c'è. Il lettore diventa il personaggio e questo è il grande miracolo che ci fa amare i libri, che ci fa rimanere ben legati, abbracciati a questa antica ma sempre verde forma di narrazione. La prima volta che ho incontrato Maurizio Di Giovanni, tanti anni fa, al Salone del Libro di Torino, mi è rimasta impressa una cosa. Io ti parlai di alcuni scrittori che erano venuti a Radio 24 a realizzare delle interviste e tu avesti delle parole molto, molto belle nei confronti dei tuoi colleghi giallisti, thrilleristi, chiamiamoli come vogliamo, tipo Donato Carrisi, ma anche Camilleri e così via. Ma è vero che fra voi noiristi c'è questa solidarietà e questa, come dire, vi date proprio la pacca sulla spalla? Non c'è l'invidia che in genere circola nel mondo dell'arte, degli scrittori, perché c'è concorrenza? Io sono orgoglioso di dirti che siamo tutti non solo amici, ma grandi amici fra di noi. Cioè, i festival e le occasioni di incontro collettivo si trasformano in gite di licei. Quindi regrediamo spaventosamente come età e ci divertiamo, ci prendiamo in giro fra di noi. Io credo di poter dire che siamo tutti quanti ben consapevoli che il successo dell'uno corrisponde a un'occasione di successo per gli altri. Se io porto qualcuno in libreria per comprare il mio libro, è più facile che questo qualcuno comprerà i libri degli altri. È una cosa semplice da dire, pensata poco purtroppo in altri settori della letteratura, ma noi ne siamo ben lieti. Ti posso assicurare che ci telefoniamo, ci sentiamo, ci scriviamo, ci mandiamo i libri e siamo tutti ben contenti del successo degli altri. È un bellissimo movimento. Questo era Maurizio De Giovanni che ci parlava di Ricciardi, di Serenata senza nome e di tante altre cose. Trovate la versione estesa di questa intervista su radio24.it nella sezione Il cacciatore di libri. Si chiude qui questo appuntamento flash con la lettura, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate sempre tutte le puntate del cacciatore di libri su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.